mi senti, Aosio? Già mi sento, signor Barriero. E quanto mi senti, Aosio? Quanto mi senti? Cazzo, lo stai uscendo in radio, Francesco? Boh. Allora, c'è un microfono. Cosa? No, Barriero, ma tu stai male. Francia è bruttina, cosa ti devo dire? Non so di niente, non sento amplificazione, no, c'ha delle scariche di sottofondo, boh, non ti sento bene, segnale fortissimo, segnale 6920 anche tu, perché io non abito più dove abitavo prima e quindi sono un po' più aperto per la tua zona, e anche un po' più alto rispetto a prima, perciò il segnale è molto molto alto, 9+20, e... però la radio non mi piace, Francesco, devo essere sincero, non mi piace. Se ti interessa ti ascolta parecchio, questo è il prossimo quarto, usando il quarto, usando le 20 di stanza, l'ho abitato qua al diploma, l'ho abitato a 300 di piazza, non so cosa dire, riprendi questa chiave, no, con le scuse per gli altri, ma se abbinamento i come che vuol dire, ne ho fatto tanti e ti posso dire che è eccellente. Evidentemente il microfono non è stato fatto bene, capito? Perché io gli abbinamenti MC60 col 756 della Icon, 720, tutti gli Icon che ho avuto, io avevo l'adattatore, usavo il 60 ed era una bomba. Esce molto molto bene. C'è qualcosa che ti è sfuggito, Francesco, o chi te l'ha fatto gli è sfuggita qualcosa, non lo so, però così non va bene, non sta spingendo, non sa di niente, sembra un microfono normale. Avanti, Giulio. Vedi dal tasto di sotto che non si è chiusa l'amplificazione. Sì, infatti un microfono normale è anche meno di un microfono normale, per cui non so, Francesco, vedi di regolare se è possibile, non so, sicuramente se stai usando 60, come stai dicendo, evidentemente non è regolato bene, qualcosa c'è, o è la radio che vuole regolarla, non lo so, vedi un po' tu. Va bene, avanti Franco, che è entrato Claudio. Ciao Claudio. No, e qua quanto faccio fatica a capirlo adesso, ci ha abbassato un po' di più. No, non so che radio sta usando, però ci ha abbassato di brutto. Quando è entrato era molto alta la radio, poi tutto un colpo ci ha abbassato. Avanti Claudio, buonasera. Ciao Fra, buonasera, ben ascoltato. Ma infatti io sono molto più favorevole rispetto a prima, il segnale è fortissimo, è il più alto che sto ricevendo da quando sono qua, è 9+20, però la radio non mi piace, c'è qualcosa che non va. Oh Francesco, stavo dicendo, ma sotto il MC60 c'ha un pulsantino, ok? C'ha un pulsantino. Quel pulsantino, quando tu hai di fronte il microfono a te, no? È in avanti, quel pulsantino è in out praticamente, in avanti o è spostato verso dietro? In avanti, qua lì sarebbe il microfono dell'amplificazione, sì. In avanti. E l'impedenza sopra il microfono quanto ce l'hai? A 50 o a 500? A 500, No, mettilo a 50, mettilo a 50. Ok, vedi un po' adesso, 1, 2, 3, tromba, vedi un po' adesso. Adesso ha peggiorato, ragazzi. Invece di migliorare peggiora questo microfono, ma è questa cosa? Cosa? Diavolo, rimetti la 500, rimetti. Funziona meglio il 500, evidentemente la radio è troppo vintage, quella è 720, e l'impedenza 50 è... smorza la modulazione, ha necessità di 500k, va bene, lascia la 500 comunque, va bene così, non so che dirti, però non sta spingendo. Ciao Fra, comunque buonasera, ben ascoltato, avanti Giulio. Ma quella radio non ha processore? Non lo so se ce l'ha, non me la ricordo. Ce l'ha il processore quella radio, Francesco? No, negativo, niente processore. Solo in mano laterale ce l'ha il processore quella radio. Compressore neanche? No. Ascolta, il micchierino a quanto ce l'hai della radio? È un po' più della nostra. Aumentalo ancora, vediamo cosa succede. Vedo per adesso, ho fatto un paio di tacchi al freno, dai. Vedo un po' adesso, comunque, essere pronto. Adesso spinge un po' di più, però c'è questo, io non so se lo sentite, io sento del un fruscio sotto, Franco. Anche cosa di propagazione avanti Giulio lo sentivo poco fa adesso, perché loro ascolto basso anche di segnale e Giulio lo ascolta più bene, avanti giù. Ok, no, io la radio la sento abbastanza, però c'è un graziale nella radio, nella sua modulazione non è limpida, c'è una specie di graziamento nel microfono man mano che parla, come quando ad esempio quando parlando di un microfono normalissimo c'è la batteria scarica, ecco, una cosa del genere, ma qui non si tratta di batteria scarica, stiamo parlando di un MC60. Ecco, ma l'ho detto tanto per dare l'idea di come può essere. Io lo sento così, capisco quello che dice, certo, però inizialmente è arrivato che era una bomba proprio fortissimo, e invece adesso si è abbassato proprio categoricamente, ma in maniera importante si è abbassato, non so per quale motivo, boh, cosa dire. Avanti Natali, dai, dimmi tu qualcosa. Io lo sento che strappa pure. Io vi saluto comunque, adesso che devo fare cosa, vi ascolto comunque, dai, salutoni a tutti. Ok, ciao Natalia, allora dai, buona serata, ci sentiamo prossimamente, dai, avanti qua. Claudio si è allontanato per un attimo, riprendi Francesco. Sì, un attimo che è arrivata gente, riprendo subito, riprendi Francesco. Perché c'è un innesco che non finisce mai, c'è un innesco fortissimo, è aumentato come volume di modulazione, è più forte, però c'è un innesco che non finisce mai, Francesco, prova a eliminare quello, se ti riesce, non lo so, probabilmente se hai un microfono preamplificato dovrai abbassare il mic gain della radio, perché quando succede così di solito è quello il problema, vai. Non va bene, non facile, è sempre brutta la radio, sempre brutta, come volume potrebbe anche andare bene, però è brutta sempre come radio. Vai Franco. Tende a strappare anche, tende come radio. Ma strano però che usi l'MC60 e ti faccia quel difetto lì. Io sto usando l'MC60 eppure sento che sta uscendo bene. Brecco. C'è stato il break di Roberto. Ciao Roberto, ben entrato. Ti mando avanti Francesco, ti fa sentire un microfono che per lui sta uscendo molto male. Avanti Francesco e Roberto. Non è più l'altro, è un altro microfono, poi sto usando il tablet. Sto usando il tablet, vedi un po' se è sparito l'innesco, ho passato un altro fuori, il Michigan, 1, 2, 3, prova, vediamo un po'. Sì, buonasera Francesco, no, ti ascolto bene, segnale 9+15 radio 5, e da dove stai modulando? Ah, tu sei Roberto, ben sentito, stavo fuori qua da là, però si lo scappa come al solito, collina, state a cambio. Sì, poco fa ti ascoltavo, confermo quello che ha detto Giulio, ti sentivo molto male, devi, se era il 60 devi guardare l'impedenza, se l'ha regolata bene e sei troppo carico di potenza della radio, ma ci devi stare molto attento perché sono innesca. Ok, saluto anche a Franco Di Sorso, Natalino l'ho sentito di sfuggita, rilancio a Giulio e mi dirà se c'è qualcun altro. Avanti Giulio. Ok, ciao Roberto, ben entrato, sì c'è Claudio di San Mai, però al momento perché è impegnato in casa, per cui rientrerà fra un po'. Sì, ma è così. No, ancora peggio era prima era ancora peggio, quando stavo usando l'MC60 era ancora peggio. Adesso un po' ha migliorato, diciamo che non è bella, però diciamo che si può accettare, però non è bella assolutamente la tua radio, Francesco. Io continuo a dire così perché sono abituato a sentirti meglio, la verità. Avanti Francesco. Sì, ok, yes. No, vabbè, adesso comunque avrò passato le micidine, sto usando il Turner adesso, non più l'altro, non più le micidine. Sto usando il Turner, vedi un po' se ci hanno dato qualcosa di meglio, dai, 1, 2, 3, vai. Intanto hai eliminato l'innesco, quella è già una cosa importante. Diciamo che già si capisce, a me perlomeno la lei arrivi abbastanza bene anche come volume di radio. Vediamo un po' a sorso come arrivi, perché il problema era anche quello, poc'anzi Franco ti sentiva un po' basso di radio, vediamo se adesso riesci a sentirti meglio, vai Franco. Sì, no, adesso l'ho ascolto perfettamente, ho migliorato un bel sia il radio. Il Turner arriva molto molto meglio, la modulazione si è chiarita e io ascolto benissimo l'ascolto adesso, una radio di 5, segnale sempre 7, però la radio sempre è migliorato un bel. Comunque ciao Natalino e ciao anche a te Roberto, avanti Roberto. Grazie dei saluti e Franco, ti ascolto perfettamente anche a te, bella modulazione, mi piace, niente da dire, pulita, c'è una radio, ti assomigli molto, confermi Giulio, ha salvato le maestrale, ti ricordi Giulio, ci assomigliano belle voci di tutti e due. Sì, per come mi ricordo io, sì, è vero, almeno con questo microfono che stavo usando adesso, certo, probabilmente sarà quello anche, però, ripeto, io ho avuto modo di sentirlo altre volte, più basso di segnale, ma molto meglio di radio, la verità. E dunque, oggi invece mi arriva parato, perché mi sta arrivando a Santiago Nuovo, pieno, mi sta arrivando di segnale, evidentemente sta usando anche un pochino di potenza, e la radio non è come quella che io ho sempre ascoltato altre volte, in maniera perfetta, ecco, tutto lì. Avanti Francesco. Ok, saltano un po' di QRM qua causato da quella propagazione, va bene, ok, perfetto, ma sono contento che mi senti meglio e niente, dai, era per fare una prova qua, perché stavo controllando qua e mi stavo schiacciando l'antenna, quindi c'era un casino da fare qua, meno male che ho finito e quindi e niente, dai, stavo provando come andava la situazione, così nel frattempo stavo provando a aprire questo microfono che avevo preso qua e niente, dai, benissimo, va bene, riprendi Giulio e fai girare, dai. Ok, io faccio girare subito Roberto, avanti Roberto. Ma con che radio stai uscendo Francesco? Avanti Roberto. Sì Francesco, con che radio stai uscendo? Con il 720 alfa. Ah no, vabbè, già il segnale è forte. Come mi ascolti a me dalle tue parti? Aspetta, io ti guardo. Sì, 9.10, sì. Andiamo bene, andiamo. Carta. Sì, a Luca, ciao Luca. Spice. Ciao Robert. Ciao Luca. Ciao Giulio, anche a te. Chi c'è in questo canale? Oltre a me Roberto c'è Francesco di Osino e anche Franco da Sorso, per cui va bene così. Rilancio il microfono a Francesco. Francesco, visto e considerato che siamo in un momento di chiedere il segnale, dimmi il mio, io ti avevo detto già due volte o tre volte il tuo, 9, per cui va benissimo così. Vai Francesco, fai girare tu dopo. Allora, il tuo segnale Giulio qua è Santiago 7 con picchi di 9, radio 5. Ah ok, va bene, vuol dire che il microfono funziona bene, quello che mi interessa. Avanti Franco. Capo, riportate il microfono Giulio, indossate il microfono. No, diciamo che oggi arriva bene anche lui, arriva bene Francesco, arriva benissimo. A parte poco fa che stavo facendo un po' male di radio, però del resto arriva bene. Segnale 7 e radio 5, perfetta, alla grande. Avanti, ciao Luca, me l'ha ascoltato, avanti a te Luca. Ma Luca si è sentato? Avanti Robert. Vabbè Luca è entrato, forse è entrato solo a salutare. Stavo dicendo, a Sosso come arrivo io? Sempre uguale, non è cambiato niente, Franco. Io per Radio 5. Ma una domanda, Francesco sarebbe uranio, così è? Sì. Perché molte volte. Ma ce n'era un altro, chi era quello che c'era l'altro di Usilo? Serafino, chi era Francesco? Ah, Serafino, ma quello non ci più, sapete che è andato in piedi, non lo so. Ma quello aveva l'antenna vicino alla piazza, la piazza San Valentino, di lì era? No, quello era un altro, si sta confondendo. Quello era, diciamo, più là, molto più là. Perché avevo sempre un'antenna lì buttata, non so se ci sia ancora, tanto tempo fa. Ok, Giulio, avanti a te il mic. Ok, sì. A proposito adesso di quell'amico di Usilo, ricordami il suo nome nativo quando usciva al baracchino. Te lo ricordi tu? Io non me lo ricordo più, com'era? Così, per curiosità. Ivan. No, Ivan, lascia perdere, Ivan già l'ho conosciuto bene, quello era uno di 40 anni fa, ma dopo, io parlo di 7, 8, 10 anni massimo, non di più, fa, Ivan già l'ho conosciuto, quello lì era quello dei bubli, eccetera, eccetera, che facevamo queste ore, io lui e una ragazza dell'Isola d'Elba tutti, tantissimi giorni, sia d'estate che d'inverno, riuscivamo a parlare con questa ragazza, nonostante che quella lì era in Toscana, sull'Isola d'Elba. Per cui, no quello, ce n'era un altro, credo che fosse pastore come mestiere o francese, te lo ricordi? Ah, quello lì è Dario Nonna, Serafino Dario Nonna. Ecco, Serafino, giusto, adesso mi è venuto in mente, adesso che tu l'hai citato mi è venuto in mente, sì, Serafino, sì. E anche con lui facevo molti QSO, la verità, aveva un apparecchio professionale, so che aveva, però poi non si è più sentito, ma manca già una decina d'anni dalla frequenza. Pazienza, avanti Franco. Capo, molta gente è sparita, da Usilo ce n'erano parecchi, San Lorenzo e quelle zone lì, quindi sono tutti spariti solo, caspita, prima già ce n'erano parecchi. Avanti, vabbè. Stavo dicendo, ma questo Dario Nonna, parente di Domenico Nonna e Francesco? Ah, questo non te lo so dire, forse magari un altro nonna, come possono essere parecchi o cugini, non te lo so dire quello lì, non te lo so dire. Ma quanti anni può avere questa persona? Quello lì è oltre la mezza età, forse sui 54-55 anni, una cosa del genere. Ah no, pensavo fosse più grande, la forza non è quello che dico io, dai. Ok, di nuovo a te Giulio. Ok, vabbè, sì. Va bene, dai. Francesco, volevo dire, magari forse fra un po' ho anche la possibilità di venire più di una volta a Usilo, così può darsi anche che vengo a guardare la tua antenna, da fuori la tua mente, non da casa tua, dall'esterno. Va bene, staremo a vedere, non so quando sarà comunque, probabilmente fra un po' di tempo. Riprendi Francesco. Passato qua un po' di correbbe. Sì, l'antenna l'ho cambiata, è nuova, non è più quella di prima, l'ho cambiata, infatti noi oggi abbiamo finito di impiantarla. Niente, dai, sto usando una LEM Super 16, ok. Niente, quando la vedi molto alta con l'antenna, lo stile è molto alto, io ce l'ho messa un po' bassa, circa 2 metri e rotti, 2 metri e 80 l'altezza, o 2 metri e 60, una cosa del genere. Ma da fuori già si vede, ok, anche da lontano si vede, anche se vai al campo sportivo, se sei la zona, il punto dove sono io, si vede anche da lontano. E niente, così dai, va bene, io devo cambiare qua apparato, perché devo ancora fare una collegata alla prova, va bene, sentiamo magari fra qualche minuto, riprendi giù e fai girare. Ok, riprendo io allora e faccio girare per Franco, l'assorso. avanti Franco. Volevo chiedere una cosa a Francesco, poi ero dai, sei andato via. Niente. Cambia apparato, ma se sta uscendo bene questo, come mai? No, cambio apparato perché devo provare, sto facendo le prove qua, devo provare il microfono che stavo usando qua prima in un altro apparecchio, capito? È per quello che l'apparecchio questo lo devo abbandonare e devo accedere un altro. Dai, quello devo usare, non 8.000, le 1.000 erano 8.000 euro. Contento sia. Ciao. Ascolta, volevo chiedere una cosa prima di andare. A Farina lo conosci? Sì, certamente che lo conosco. Tu stai parlando di Nino Farina, così è. Ciao, che lavorava a Lenica una volta. Sì, che quello lì, non so se lavorava a Lenica, forse era gioventù, questo lo sapevo. Però prima, dopo dire, magari aveva anche dei utili alimentari, perché la madre di quello lì aveva un negozio che vendeva, diciamo, ciampusaggi, così, per fare anche qualche po' di alimentari, non mi ricordo. E niente, vabbè, avevo anche un po' di merceria vendeva, capito? Mio Farina, sì, ok, quello lì era anche non mi ricordo che non mi ha seguito un zappa. Comunque quello lì, ci siamo. Capo, è stato un mio collega, è stato tanti anni fa. Bene, nera. Avanti, va bene. Ok, allora volevo dire a Giulio, con quello stai uscendo oggi tu? Con l'Aran 44 della CTE. Sì, ho capito. No. Volevo fare adesso i confronti di segnali. Come ti arriva a te, Osilo, e come ti arriva a Franco? Per capire un po' come sono le radiazioni di queste antenne. Osilo, come ti arriva a te, Giulio? Allora, Osilo mi arriva 9, l'ho detto da poc'anzi, almeno 2 volte gliel'ho detto, 9 pieno. Sta usando sicuramente un pochino di potenza in più lui, perché se no di solito mi arriva intorno al 7. Franco mi arriva meglio, più forte, e adesso appena che rilancio il microfono dopo te lo dico all'altro giro, ma intorno ai 9-10 comunque. Vai Franco. Va bene, io adesso sto usando, cioè una ventina di watt sto usando questa radio qua. Mentre Franco, scusa Giulio, riprendi tu, scusa. Confermo, 9-10. Come arriva leggermente più basso, con i picchi arriva a 9-10. Cosa arriva a 9-15, Osilo? Come si chiama? A te quanto ti arriva Osilo, Franco? 7. Ma per capire come sono le radiazioni e come vengono disturbate dalla distanza e dalle colline, dai, perché Osilo è abbastanza, anche se non ho capito esattamente da dove sta modulando Franco, ha parlato del palco di campo sportivo, però voglio capire se è dietro, dopo il campo sportivo o più in alto, dalla parte del castello, dalla parte del cimitero. Ci sei ancora Francesco, scusa, forse è ancora cambiato apparato. Ma qui ha detto che è nella collina, non so se è davanti alla collina di davanti di Osilo oppure l'altra collina. No, voglio capire se lui è rivolto verso Sassari o se è dalla collina dall'altra parte lui, perché Osilo dovrebbe arrivare fortissimo qua, perché lui c'ha un segnale 9-15, però visto che siamo in linea d'aria vicinissimi e non ostacoli, voglio capire se l'antenna sua è orientata verso Sassari o se è dall'altra parte. Se fosse nella punta di Osilo mi sarebbe arrivato a bomba, perché io la punta di Osilo la vedo da qua. Sì, io sono tutto aperto, Osilo ce l'ho di fronte, non ho nessun ostacolo. Perché qua mi arriva quelli di Muro, se mi arrivano più forti di lui, non parliamo quelli di Alghero. Guardi Giulio. Sì, comunque confermo, 9-10 Franco e Moldovati 9-15. Praticamente con lo stesso segnale di portante tua Robert, tu arrivi 9-15 di portante con una leggera oscillazione verso il 9-17, una cosa del genere. Vai Robert. Tu arrivi quasi 9-20, con parlato arrivi a 9-20. Ok. Sto uscendo con 11 watt più o meno, dai, una cosa del genere, 11 watt, 11, forse 12, non lo so di preciso. Guardando così lo smitter ad occhio segna quel vantaggio lì, niente di più. Bene, vediamo se rientrato Francesco, avanti Francesco. Comunque no, è una posizione infelice per essere Osero, perché sono di fronte a lui e mi arriva quanto è terro, e infatti volevo capire quello lì dove è messo lui, perché quello che c'era prima Serafino adesso non so dove modulava, ma ne arrivava più forte di lui. Tu lo sai dove sono io? C'è il segnale tuo, mi dovrebbe arrivare a fondo scala a me. Non lo so, infatti probabilmente lui è orientato dietro la collina dall'altra parte, non è di fronte a Sassa. Beh, perché io oggi non lo vedo proprio adesso, prima non lo vedevo, adesso proprio ce l'ho di fronte, quindi capito, dovrebbe arrivarmi molto forte, invece mi arriva quanto a te. Vabbè, ma molte volte le antenne, ma poi hai sentito dove l'antenna è messa? A 2,5 metri, una cicotta via 2,5 metri, dove vuoi che vada? Non lo so, va bene, dai, sono rientrato, ma rimango un attimo all'ascolto perché mi hanno portato roba, mio vicino sempre Garrendi, e me la devo mettere in freezer. Roba da magna sicuramente, no? Lui è cacciatore, quindi un po' di cinghiale, un po' di selvaggina, un po' di roba, ci sentiamo dopo. Fai con comodo, vai Giulio a Telmaic che fa girare a Franco e poi Franco a Francesco si è rientrato. Ok, sì, beh certo, conservala bene il frigo, conservala bene. Comunque anche Claudio mi arriva fortissimo lo stesso, nonostante la distanza, mi arriva con quel baracchino che sta utilizzando, 3-4 watt, mi arriva 9 più 5 di segnale, con oscillazione poi positiva chiaramente di microfono. Va bene, alla grande. Avanti Franco. Capo. Gli arrivano tutti bene, non c'è questo problema. Aspetta, tu vuoi lo stesso giù qua, arrivi 9-2, arrivi a portarti Luca e poi 9-8, quasi 9-10 arrivi parlato. Ok, dunque va bene, dai. Va bene, senza esagerare con la potenza, eccetera, eccetera. Va bene, non c'è problema. Francesco, sei rientrato? Francesco ha bruciato tutto, Robè. Questa sera non entra più. No, io non lo conosco di persona, lo conoscete qualcuno di voi a Francesco? Ma diciamo che una volta, io adesso magari se lo vedo non lo riconosco, però diciamo che una volta lui è venuto a trovarmi in falegnameria, ma parlo di tantissimi anni fa, eravamo più giovani eccetera, però se lo vedo adesso io credo di non riconoscerlo, almeno credo, e poi bisogna vedere se quando lo vedo se mi ricordo la sua fisionomia, ma non credo però, dai. Anche perché io non sono molto fisionomista, devo ammettere quello. Va bene, dai, comunque, va bene così, avanti fra. No, neanche io lo conosco Francesco, infatti ho chiesto solo se conosceva quello là perché era un mio collega, era tanti anni fa. Abbiamo lavorato parecchio tempo in Fiume Santo insieme, di giorno e di notte, sempre andendo. Avanti Roberto. Sì, lo so, quel lavoro, quel tipo di lavoro. Una domanda Giulio, ma a te il lockdown ti ha fatto un po' più grasso? L'altro giorno quando sei entrato in officina, in un primo momento vabbè c'avevi gli occhiali scuri, non la mascherina, non ti avevo riconosciuto, ti ho riconosciuto dalla voce, e poi ti ho sentito parlare, anche chiletto ce l'hai messo giù, o sbaglio? Sì, almeno 5 kg buoni. Sì, in effetti è così, cosa vuoi fare? Se non mi muovo, stando sempre a casa, quasi sempre, difficilmente esco, se non proprio per motivi importanti, se no poi si sa, e pensare che mangio sempre allo stesso modo, non è che mi abbuffo più di tanto, sì, diciamo che non mangio poco, questo no, questo lo devo dire, già mangio abbondante, però ho sempre mangiato così. Ma adesso non facendo più movimento e non uscendo più nemmeno la mattina, chiaramente mi sono appesantito un pochino, ma sono intorno agli 85 più o meno, 85 kg grosso modo è quello il mio peso, Robè, vai. No, non è una critica, io dico quando uno ha fame vuol dire che è sano, il brutto, il cosa brutto quando uno non mangia e vuol dire c'è qualche problema, no, non era una critica, anzi era un complimento, ti ha giù visto di buona forchetta, dai. Ma diciamo che la colpa non è mia, sarà colpa di mia moglie che prepara piatti buoni. Vai, infatti io ieri gli ho detto, cioè sabato quanto gli ho detto, domani, da domani sono a dieta, poi ieri quando stavo mangiando è meno male che si era anche a dieta, oggi te l'ho ripetuto di nuovo, e vabbè, già ti ho capito che sei sempre a dieta tu, così va nel posto. Avanti, Franco. E cosa ci vuoi fare? Ma non fai niente, che stai fermo, è ovvio che ti ingrassi. Io, aspetta, cosa ho finito? Io per dire, ogni tanto mi muovo, adesso mi sono fermato un po'. Forse c'è qualcuno che vuole entrare. Fermato, se no io tutti i giorni mi facevo 6 km, 8 km a piedi. Adesso mi sono fermato, però devo ripartire per forza. Ecco, se non vado, comincio da domani di nuovo, perché la cosa si sta aggravando, sto cominciando a prendere peso e non va bene. Avanti, vabbè. Aspetta un attimo, c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, che vuole entrare? Sì, avanti. Stavamo durando quando stavi parlando tu, Franco, diceva ora, ora. Avanti, che vuole entrare, se no rimanga fuori. Vabbè, riprendi tu giù, vuol dire non mi ha voglia, cosa vuoi dire? Evidentemente non o non ha sentito, oppure comunque il cancello è aperto, qui il cancello è aperto e la porta è spalancata, per cui se vuoi entrare siamo qua, non c'è problema. È così, vabbè, purtroppo se uno non fa movimento è chiaramente un pochino di peso se lo recuperi, no? Non ci sono dubbi. Se con questo lockdown diciamo che tutto sommato ha fatto molti danni, ha fatto anche a livello di peso personale. Vabbè, pazienza, vuol dire recupereremo. A proposito, volevo chiedere anche a Francesco Poccanti, ma dimmi una cosa, Robè, la squadra malaspina di Usilo ancora esiste? Che cosa? Non ho capito. La squadra di calcio malaspina di Usilo ancora esiste? Sì, mi sembra che sia in prima categoria o in seconda, vabbè, è saltato tutto, adesso non si capisce niente, c'era anche l'Usilese di squadra, però per quanto ne so io c'è ancora. No, perché non l'ho più sentita, vabbè, non l'ho più seguito, la verità, non l'ho più seguito anche per il fatto del lockdown, prima io andavo sempre qui alle punti, e invece adesso non so nemmeno se hanno più giocato, ma non credo però, penso che quei campionati minori sono bloccati, è vero Robè? Sì. Che avanti. Il segnale c'è uranio, radio zero, proprio basso basso, ti sento appena appena, il segnale c'è quasi 9.15, però radio non ne hai. Ah, vabbè, adesso ci siamo spiati al microfono, vedi un po' adesso, uno, due, tre, prova. Sì, adesso si è migliorato, però c'è un leggero innesco sotto, però non è forte la radio, chiara, però c'è un inneschino sotto e dovresti alzarla un po' di più, dai. Un attimo, scusate se ho premuto io, comunque io devo andare. Ciao Giulio, scusate, ce la ascoltiamo per il prossimo. Ciao anche a Claudio se c'è ancora in ascolto, ci sentiamo, riprendi tu Roberto e fai girare. Ok, dai, riprendi tu Giulio. Ok, riprendo io, allora ciao fa. Grazie per la chiacchierata, ci sentiamo allora, dai, evidentemente domani. Va avanti Francesco. E ok, vediamo un po' come tu allora. Vedi un po' Giulio, adesso prova, vai. Ti sento bene. Allora è più basso, come radio è più bassa, però è più pulita come modulazione, è proprio limpida. Ok, perfetto, va bene, porta per il tempo, dai, ciao, riprendi e facci la testa. Ok, vabbè, Franco si è allontanato, Roberto è al telefono, per cui non posso far girare, posso solo rilanciare a te, vai. Adesso si è abbassato molto la modulazione, quasi quasi non si sentiva, la radio adesso è quasi... scomparsa del tutto. Sono rientrato giù. Ok, vabbè, si prende, vabbè, dai, Francesco, sei abbastanza di nuovo alla radio. Francesco, ma hai detto sta usando l'MC60 con l'8001, confermi? Sì, non c'è. Ma scusa un attimino, l'MC60 c'ha il coso, da dove gli ha dato l'alimentazione? Ci hai messo la batteria? Sì, sì. E dimmi una cosa, l'impedenza l'hai toccata, in che posizione ce l'hai? 50 Prova a invertirla. No, no, così si è abbassata ancora di più. Ma non è adatto quel microfono, non ce l'hai un... Ecco, c'avevi un Turner. Il Turner con l'8001 c'è una bomba. Un MB più 4, più 5, non è un microfono del genere. Sì, sì, sì. Un peccato quel microfono utilizzarlo così per quella radio di lì. Ok, vai Giulio. Infatti se è un Turner dovrebbe funzionare bene, invece visto e considerato che ha fatto già diverse prove e non riesce a sistemarlo, boh, non so per quale motivo, però è così, adesso è bassa. Inizialmente andava anche bene, anche se era più bassa, però adesso è proprio bassissima la modulazione, non riesco a quasi a sentirlo. Va bene, dai, comunque, vediamo un po'. Avanti Francesco, vediamo se hai migliorato da questa situazione. Niente da fare, dai, non riprende. Allora, vabbè, la mia radio sta andando bene, no? La tua è eccezionale, va benissimo. No, no, ti confermo, sta uscendo bene, niente da dire. Segnale ottimo, radio pulita, chiara. Ok. Va bene, stiamo mettendo... Siccome mi si era scaricato il telefonino, mi si era spento, adesso stavo mettendo i numeri per riavviarlo, ma te lo faccio dopo, dai, non ha importanza, perché l'ho ricaricato un pochino, non è al massimo, però lo faccio dopo, non c'è problema. Va bene, dai, dopo casomai ti faccio uno squilletto. Sì, quando vuoi non c'è problema. No, io non lo spengo mai, il telefono lo lascio 24 ore su 24 acceso per qualunque emergenza, purtroppo è sempre, lo devo tenere per forza. Lo lascio acceso vicino al comodino col caricatore la notte, è sempre acceso, non lo spengo mai. Sì, ce l'ho anch'io il caricatore, addirittura posso caricare 5 telefonini tutti insieme, perché ha 5 prese, è un funghetto, che c'è la luce anche a LED di tre intensità, schiaccio e ha una illuminazione, schiaccio la seconda volta e si illumina ancora di più, schiaccio la terza e si illumina ancora al massimo, poi schiaccio e si spegne quando devo spegnerla, per cui va bene. E ci sono, ho 5 prese per poter appunto ricaricare vari strumenti, sia telefonino, sia tablet, eccetera eccetera, e anche qualche radiolina che ho, tipo che so io, un amplificatore eccetera, insomma, e anche il vivavoce della macchina mi carica tutto insieme, 5 cose posso mettere, e va bene così. E adesso poi gli danno a prezzi molto bassi, prima quando abbiamo comprato un caricatore che usava giù mai il telefonino, adesso te li tirano a faccia caricatori, quelli, io ne ho uno di emergenza, quelli che hanno a carica solare, che te lo porti quando vai fuori, se non c'è alimentazione te lo ricarichi con quello, ti fa da accumulatore e in più ti permette di utilizzarlo in emergenza col sole. Sì, è così. No, questo l'ho comprato da poco lì da Amazon, l'hanno mandato, costa pochissimo, non costa neanche, costa una miseria, che adesso non ricordo nemmeno quanto, ma è tutto in plastica e c'è un funghetto, tu immagini un funghetto grande di diametro intorno ai 13 cm più o meno, dai. E sotto ci sono i LED, ci sono, tutto attorno ci sono i LED, e come schiaccio si accendono, schiaccio a pulsante praticamente questo funghetto, e lo schiaccio 3 volte e mi dà 3 intensità di luce. Sì, sempre meglio avere. Poi io ce l'ho in emergenza in macchina, uno da accendisigari, nel camper lo stesso ne ho 2, non si sa mai, ne ho uno con l'attacco, siccome Xiaomi hanno il nuovo, non hanno più l'USB, micro USB, hanno un sistema nuovo, quello l'ultimo che hanno fatto, non è quello standardizzato come micro USB, me l'ho messo nel camper, non si sa mai, un caricatore di emergenza a coso, che funziona con la batteria della macchina, ne ho messo in 2 punti diversi, così la notte, me lo tengo vicino, non si sa mai, perché ormai il telefonino è diventato indispensabile, prima 10 anni fa ne facevi a meno, adesso qualunque cosa deve avere il telefonino. Purtroppo la vita moderna di oggi è proprio così, non possiamo fare a meno del telefonino, è vero. No, tra l'altro di funghetto del ricambio ne ho un altro anche, sono due funghetti che mi hanno mandato. E poi c'è l'alloggio anche per appoggiare i telefonini quando stanno caricando. Dei separi sono, dai, uno di fianco all'altro, messo in orizzontale, però, o anche in verticale, però puoi mettere dei dritti lì. Si possono mettere o in orizzontale o in verticale. E quest'altro funghetto, questi funghetti si possono utilizzare anche nella ricarica di un qualsiasi telefonino, cioè prendi tu un trasformatore di qualsiasi telefonino e lo attacchi e funziona, perché hanno l'attacco USB, hanno, no? Sì, ho capito. Vediamo se Francesco è rientrato. Avanti Francesco, io ancora qualche minuto e poi devo andare via. Vai Francesco. Ok, vediamo un po'. Vabbè, io adesso come sto arrivando, perché è troppo, ho dato la bocca, vedo un po' dove si è rotta. Allora, la radio è chiara, però è bassa, dovresti sollevarla un pochettino. Riprova di nuovo a sollevarla. Ok, vediamo un po' adesso, non puoi essere troppa. Ma una domanda, tu stai usando l'8001, confermi? No, sì. È tutto sollevato il Mickey Game dell'apparato? Sì. E il microfono cosa c'è? È sempre 60. Vediamo un po', 1, 2, 3, prova. No, non sto usando il 60, sto usando adesso il lavoro per 108. E quello adesso è sollevato parecchio, ce l'ho anche io la 1-200, quello è un bel microfono, lo puoi sollevare parecchio quello. In che posizione l'hai messo tu l'amplificatore, l'equalizzazione? L'equalizzazione poi è regolata così, non lo conosco bene il microfono, dai, non lo conosco bene, perché questo l'avevo prima affidato all'ICOM e non andava bene, mi creava problemi e mi dicevano tutti che stavo facendo male, riabbasso, rialzo, allora mi sono fatto l'ho staccato e mi sono fatto fare l'abbinamento da un tecnico, mi sono fatto fare, capito, speso più di 100 euro. Ok, comunque adesso dovrebbe andare bene perché sia, a te di nuovo sta girando. Sì, è migliorato tantissimo, però secondo me dovresti sollevare un pochettino. Aspetta, te lo dico con certezza, dammi il tempo di verificare. Prova a parlare, scusa Giulio, il monopolio un attimo. Parla Francesco. Sì, però l'equalizzatore qua non si fa, perché qua non serve a niente. Ok, 1, 2, 3, prova. Prova a fare ancora un po' di più il livello microfono. È a manetta, a manetta. Che strano, quello lì spara, io lo devo tenere al minimo perché è troppo potente. Ok, dai, diciamo discreta, dai, la modulazione si può lavorare con l'equalizzatore, però l'amplificazione potresti migliorarla. Non so in che posizione l'hai messo tu, perché c'ha tre tastini dove c'è il compressore, c'è low, medio e alto, non so come l'hai messo. Cosa? Quello lì, quello, sì, tutto alto, a onde. Strano che sta così basso. Ok, vai Giulio, avanti a te. Ok, sì, adesso lo sento meglio a Francesco, sì. Va bene, dai. Almeno rispetto a prima va molto meglio adesso, io a voglia. Stavo dicendo, vabbè, tu la senti, la mia mente la senti tu per caso, ti lascio un attimo la portante. Ecco, vai. No, ma è solo portante, scusa, l'ho distratto. Ho detto, se senti la mia ventola, ti lascio 3 secondi la portante solamente, senza parlare. Vai? No, niente, è proprio una cosa impercettibile, ma proprio quasi non si sente. Va benissimo, radio ottima e nessun problema né di altri generi. Ok, no, perché ho messo una ventolina vicino, ce l'ho a 30 cm, 40 cm massimo dal microfono. Va benissimo veramente, sono contento, evidentemente ha regolato bene le Mickey Game. Bene, avanti Francesco. Ok, avanti Francesco. Cosa c'eri? Qualche nuovo rifondo? Ok, va bene, vediamo un po', dai. E adesso meglio di così non posso fare, ho fatto diciamo il massimo qua, non lo so, tra l'altro da regolare qua, mi pare che non ce ne sia. Niente, dai, ok, perfetto. riprendi Giulio. Sì, ma così va bene, Francesco, così va bene, lascialo così perché così va bene. Ricordati adesso la prossima volta che devi regolare allo stesso modo, come hai fatto. Perché così, con questo microfono, così va bene. La radio è pulita, pulita pulita. Per cui va bene anche come volume, come volume di radio, va anche bene. Perlomeno io ti sento abbastanza bene adesso. Il segnale è sempre quello, Santiago 9, 9 e quando modulo dice anche una leggera oscillazione positiva, che arrivi anche a 9,2, una cosa del genere, dai, grosso modo una cosa così. Vai? Ok, yeah. È importante che vada bene, io adesso accendo perché stavo facendo dei lavoretti qua, campani. E niente, dai, se no di solito io me ne sto sempre in corrente. Va bene, mi piace anche fare un po' di ascolto per sentire, diciamo, le chiacchiere. Ok, niente, va bene, Giulio, saluto e ci sentiamo in altre occasioni, dai. Scappa per me, qua è QRT, e ci sentiamo alla prossima volta. Ok, ciao Giulio, saluto cordiale, ci sentiamo, ciao ciao, per me è QRT, ciao. Ok, ciao Francesco, salutoni anche a te, alle prossime, dai, fatti sentire di tanto in tanto, perché tanto la sera lui, bene o male, o magari un po' tardino, ma ci siamo sempre, tutti i giorni, per cui fatti sentire, ciao ciao Francesco, alle prossime, grazie per la chiacchierata. Dai, rientro io, saluto anche a Francesco, anche se sono stato poco, in questo è durato poco, saluto anche a Giulio, io devo staccare, mi dispiace non potermi trattenere, comunque avremo modo di sentirci eventualmente domani, o non lo so, più tardi, non lo so, dopo è difficile. Ok, quello di la parte mia, buona serata e buon proseguo a tutti, ciao ciao. Ok, ciao Roberto, alle prossime, dai, ci sentiamo, dimmi se ti posso fare lo scudo adesso oppure preferisci domani. Come vuoi giù, se roba importante, adesso sto andando a casa di mio babbo, mi ha chiamato mia figlia, mi ha detto di andare, se andiamo di lì a cenare, fate andare, roba importante puoi chiamare quando vuoi, se no come vuoi tu. Oh, va bene, no, non è un problema, se volevo riprendere un attimino quel discorso che avevamo l'altro giorno, ma niente di più, dai, forse hai già capito che cosa ti voglio dire. Beh, mi immagino, comunque ne parliamo a voce, non c'è problema, dai, allora ci sentiamo domani direttamente, ciao ciao Giulio, buona serata. Ok, ciao Roberto, alle prossime, ciao ciao, grazie. Grazie per la chiacchierata. Adelante, ¿qué estás? Hola, hola, hola, amigo, ¿me escuchi? Buenas tardes. Te escucho, Franco de Sevilla. Ok, estación primada Palima, Corea, Pablo Antonio, Isla de Cerdeña. Ciudad de Sassari, adelante. Es más, es toca. Chao, toqui, bambato. Estoy pando, pero, no es un bicho, Peggio per te. E lì ce lo faccio, non mi ascolto manco molto questo, arriva sempre a voi 3 e 4. E quello sì, io purtroppo non ne ho di quello lì, è come se... E va bene, si trova uno di quelli, non ti preoccupare, a poco prezzo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ci va quello. Si attaccano, mi ballano i televisori di tutto il quartiere. Non si chiede, il televisore è finito di soffrire. Se no te lo impresso io. Mira per me. Vabbè. Però va. Cato visto la fotografia, ma dove ti sei andato a Porto Rotondo? Ieri, non penso con l'acqua che c'è. Ah, cosa? Non stava piovendo, no? Mi sono buio con te in mare. Ieri ci sono andato. No, ieri non stava piovendo lì, no. Ok, vai, io vado a mangiare. Ciao Natalio, ciao a tutti, vi saluto, io vado a mangiare. Ci sentiamo dopo, ok? Hola. Vai a mangiare, in gota, ti vai, bombolino, bomboletto, va. Ciao a tutti, buona sera, ciao dopo. Poveraccio in cosa di più, non so. Cos'è, Antonio? Stacca che ci sattero. Sattero e sono. Staccato. Almeno ti sento in grazia di Dio. Tutto porco. Avanti, dimmi tutto. Cosa vuoi? come fa l'amore con me, brutto magone finuccio, hai capito? Io con il fucile non ci parlo, me lo bene. Se andiamo e andiamo, chi è te? Caterino. Uomane. Tu dov'hai? È vero. Oi, oi, ragazzi. E beh, Luca. Pompo, ti servo una dentiera seconda mano. Una ventina di seconda mano. Una dentiera seconda mano ti serve. Vai su eBay. Hai un video di dentiere. Cazzo, ci sono su... Non c'è bisogno di andare su eBay da ora a cercarle. Ci sono quelle cinesi già pronte, costano una cazzata. Poi ci sono quelle da infilare nei vitti, addirittura, hai capito? E poi ci sono quelle di plastica da infilare sopra i denti normali, che mi hanno fatto i denti sbiancati, bianchi come un delfino. Ma io dico, ti mangio la mignola, niente la seconda mano. beh, evidentemente hanno trovato qualcuno che fa il becchino, io, hai capito? In realtà, quindi ci sono anche denti a piede d'oro, me. Capito che vanno a, come si chiama, li portano il dente e lo fanno sciogliere, ragazzi. Già lo so, se prendi la saliva attiva va a controllare il riso, se no si attacca, riprende. Eia, mio cugino, la buon'anima, le faccio il valore, le dentiere. Sì, ma te lo sto dicendo, lì alla... qualche becchino glielo sai, anzi qualche becchino, qualcuno che va a fare spazio adesso con la questione del Covid, capito? Toglie la roba vecchia e trova magari qualcuno che c'ha nel teschio, come si chiama, trova un dente loro, appena glielo stacca e a uno a uno, hai capito? E gli va a dire di là. E tanto gli acquistiamo pure, a 80 euro il grammo costa adesso. Io ho perso la fede nuziale, me l'ho dovuta ricomprare. A 80 euro il grammo costa loro adesso. Figurati, una volta c'era la... come diavolo si chiama, quell'antenna che vendeva a GBC, no? Tutta era placcata in oro 24 carati, costava 120.000 lire allora. Se l'avessi provato adesso l'avessi venduta minimo 300-400.000 lire, tutta piena d'oro, compresa la placca di sopra, era successo a uno che aveva pigliato placca e anche antenna, anche la carica era placcata in oro, non c'era lame dentro, era oro proprio. Era lo stilo che era l'acciaio. Sì, vabbè. Prima magari costava poco l'oro, adesso invece, cazzo, io l'ho conosciuto e costava, mi pare, a 20.000 lire, quando c'erano ancora le lire. In realtà, vai a comprare la lava, 80 euro, 2 a un grammo. Non te la ricordi l'antenna gold della Midland, l'unica che avevo fatto. Ne avevo venduto un paio, due mi sono l'avevo vendute, a uno gli avevo lasciato la placchetta, lo stilo e anche la base. La carica era piena, tutta piena d'oro, perché l'avevo vista. Gli ho detto, mi sembra strano, ho detto che questa è... E intanto era placcata oro, sopra all'interno c'era la carica tutta oro, era. Figurati tu che si è fatto ghito. Era circa il 2000. Bravo, ma non le fanno più di quelle antenne, sennò se la pezza sopra il tetto vuoi. E loro è un ottimo conduttore per la radiofrequenza, ma è che ce la può permettere un'antenna d'oro? Ce l'aveva una cosa, ce l'aveva. Ti ricordi quel ragazzo, no quel ragazzo, quel CB che mi aveva chiamato, perché io ti parlo tanti anni fa, lavorava con la Coca-Cola, era, come si dice, era l'unico in tutta la Sardegna, hai capito? E c'aveva l'antenna piazzata così, la Gollo c'aveva. Dopo un mese mi ha chiamato, dice, Antonio, mi hanno rubato l'antenna, l'hanno rubato. E cosa vuoi dire, cari? Te ne compri un'altra. No, non ne compro più, dice, antenne placcate in oro, mi ha detto. Adesso gli metto l'antenna normale, mi ha detto. E certo, per la 27 non ne vale la pena. E vabbè, quel periodo lì valeva la pena. Pompava, e cosa male pompava. Quindi, figurati. due, te l'avevo conosciuto perché faceva la presentata della Coca-Cola, faceva, capito? Quindi ce l'ha comprata, piazzata e installata. Poi c'era un bel baracchino, detto, un 200 canali, c'era io quel periodo lì, c'erano pochi in giro di 200 canali, a tutti i corti. Che c'era da subito, se lo comprava, se no si agganciava a 40 canali, se no a 23. Sì, infatti. Signor. Bei tempi quelli c'era più vendita c'era, adesso i baracchini ti ricudono la fronte. Ah, il padre ti ricudi. E anche il padre, sì. Adesso vai a cercare un baracchino, ce ne sono pochi di vino, da ben vendita su Facebook, 4,40, Iaeso, c'è l'FT 857, e ce n'è poca roba. Tutto in vendita è. C'è addirittura la linea Drake, ho visto, poi lineare, cioè sono il tele 922, cioè, c'è poca roba, cosa vede? Qua è pieno. Sì, prendi il tele 922, fai roba mentre volevi, come ti ho già fatto io 3 anni fa. Cazzo, in linea mi arrivavano 500, 450 mila di luce. Già mi basta a me. Quello che spendo io qua, c'ho lo scaldabagno con la 10 litri che consuma il doppio di quello da 30, quindi figurati. Poi c'ho il fornetto, quello elettrico, e mi scaldo la roba lì, quindi da una cosa all'altra, vabbè, Simona da quando è uscita dall'ospedale devo stare sempre con la stufa appresso perché c'è sempre freddo, quindi 220 euro di luce mi sono mai io le ho pagate, eppure quest'anno purtroppo mi scelto così, 220 euro di luce da una cosa all'altra. Il culo mi fa male. No, adesso mi fa male il collo, aspetta un attimo, mi ha chiamato. Attiramenti i duri rotelli, grazie. Andiamo e andiamo, cazzo! Che bello! Ah, sono tutto al caldo, faccio lì, così cotto, là. A caso ho sentito, lui era. Ehi! Vedi Sve! Non risponde quel pedivella, non risponde! Giù di Sve! Un po' comane, ti credo non rispondi. Ah, sono tutto al caldo! Ebbene, buonasera! Ah, tanto! Sono il marchetto Danilo! Amma quantone ha detto! Ebbene, di aziendo! Dai, scherzo Danilo! Oia! Andiamo, andiamo! Vediamo un po' se c'è Danilo, ci sei! Senti, ma sta ascoltando da qualche altra parte! Ebbene, tu vai finito! Poco fa, adesso qui devi mangiare. Ma il turista con Manzoni mi ha detto. Cosa vuoi fare? Cazzo, mi credo, la matata agisci. Se va a sera, in che mezzo vai e bevi? Se no un casino, perché il cugino di Maria lavora un bel, è apre a quell'ora. Siccome poi alle 10:30 ho un appuntamento a Palazzo Rosa, ho una visita. Cioè, dimmi tu se mi hai bisogno di 4:30, così come con 4, ma tagliami i belli. Dai che poi sei più. Stai meglio poi. Ah certo, c'ho la vista del dermatologo, mi escono queste chiazze in testa. Vabbè, faccio anche quella, dai. Poi devo andare dall'urologo anche. Che morazzo si mai altro. Ho fatto le analisi del sangue, sono a posto, sono perfette. Cattani vai, per i 40 anni sei morto. Cattani, non stai bene. Aiuta. E lì là tutto su cubo sumario, un slogan tu. 46 nasci, non 40 anni, 46. Vabbè, posso mare, non te lo posso dire, però non stai bene, diciamo, che no, devi essere controllato, da. E adesso cazzo li rompe il di dietro. Sì, magari gli ha rotto quello, ma ci sei rimasto. Quanta pacca. Gli ha rotto, ma ci sei rimasto. No, l'uomo ti controlla il baccaglio del mangaglio. No, no, ti controlla la prostata, ti ci mette il dito dentro, così impari. No, no, la mia non è vista dalla prostata, è un'altra cosa. Ancora non sono in età di farla. E l'urologo mi ha